Stile di vita dettato dal bacino che va dalla conquista del mondo a quando era un ragazzino. Stile arrogante, stile prepotente, arriva ad ogni ragazzo per poi rubargli la mente. Stile che dilaga in questa regione, dai 7 anni in su tutti vorrebbero il primo cannone, pronto a fumare, pronto a sparare, per ogni minima sciocchezza un'altra vita da buttare. Terra di armi, terra di incubenti pesanti, dal paradiso sono scesi tanti, in tanti hanno iniziato a dettare la nuova religione, che cita la forza dell'uomo e dell'intimidazione. Sì, purtroppo è così. La nuova mafia ha radici dappertutto, se un albero ha fatto il frutto, loro non hanno gelso. Spremuto fino alla fine, fino all'osso, questa è roba potente da buttare giù un colosso. Ma d'altronde come darvi torto, se in uno stato come il nostro il crimine paga, conviene rapinare, conviene ammazzare, conviene fare questo piuttosto che andare a lavorare. Soldi facili, perché andare a lavorare, a studiare, buttare una vita per non avere i soldi per mangiare, perché lo devo fare, guadagno più soldi se comincio a spacciare. Pensiero comune. Sì. Stile di vita del Stato, da Marlon Brando, i segreti della mafia e di ogni suo membro. Pensiero non distante, oggi che la mafia è grande, come rigire, gira, rigire, sempre più potente. Vuoi sapere dov'è? Guardati intorno, di fronte a te c'è tutto quanto un mondo. Pieno zeppo di criminali incalliti, cervelli demoniaci partoriti, da Satana in persona. Il governo è la mafia, il Parlamento è la mafia, ogni politico è la mafia, ma per loro anche un bambino è la mafia. Scorretti con noi e tra di loro, anche se non lo sanno, di ogni loro cosa buona noi l'abbiamo visto soltanto il danno. Ipocriti, devo dare retta a dei deficienti o personalità veramente potenti. We'll be right back.